ancora non è matto. Il cane è stanco, è solo stanco. Il cane è stanco, non è matto. Il cane è stanco, è solo stanco. Matto, è solo matto.